Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, benvenuti a voi, vi aspettavo, noi siamo prontissimi, dico noi perché Filippa Oreggi in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione e come sempre ci sono i titoli del nostro sommario. I capelli fra salute e immagine. L'artroscopia compie 30 anni. Influenza A, il vaccino funziona anche sui bambini. Capelli, l'avete sentito? Questo è il tema di cui ci occupiamo oggi. Parliamo delle cure ordinarie e anche delle cure straordinarie che possiamo dedicare alle nostre chiome. Quindi raccomandazioni, suggerimenti e consigli 800 24 0024, il nostro numero verde è già attivo. I messaggi come sempre al 349 238 6666. In linea con noi è tornata a trovarci la dottoressa Sandra Lorenzi, direttore scientifico dell'Istituto Dermatologico Europeo di Milano. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno a lei Nicoletta, buongiorno a tutti, grazie. Direi che però andremo oltre, andremo come si dice al cuore del problema per parlare del rapporto che ci lega con i nostri capelli, che cosa pensiamo di loro, se siamo soddisfatti, preoccupati, di che cosa in particolare, dell'aspetto, del numero e quanta importanza diamo ai capelli degli altri. Sono una variabile discriminante? Lo chiedo alle amiche all'ascolto ma naturalmente anche agli amici. 824 0024, in linea con noi abbiamo la dottoressa Sara Viola, che è medico e psicoterapeuta, che ci aiuterà ad esplorare quanta importanza ha la nostra chioma anche nella nostra autostima e che cosa dicono i capelli che spesso acconciamo, tagliamo, coloriamo. Dottoressa Viola, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. I capelli sono fondamentali perché parlano di noi, della nostra personalità, di come siamo fatti strutturalmente e anche del momento che attraversiamo. Quindi sono un dato storico di ciascuno di noi e anche un dato di cronaca, cioè parlano del nostro qui e ora. La cura dei capelli, l'impatto che questo elemento così importante ha sugli altri è un aspetto fondamentale dell'immagine e quindi anche la non cura, per esempio, per dire immediatamente un dato, nelle fasi di depressione, nelle fasi di stanchezza e purtroppo noi ci stiamo avvicinando all'autunno, quindi questi elementi depressivi diciamo entrano nella loro stagione calda, ecco che anche la cura dei capelli viene a mancare e una chioma spenta, una chioma non curata ci dice subito che siamo in una fase, in uno stato d'animo di tipo malinconico. Dottoressa Lorenzi, riprendendo quanto ci ha appena raccontato la dottoressa Viola, noi anche dai nostri capelli, dall'aspetto dei capelli, possiamo avere delle indicazioni sul nostro stato di salute. Sì. E su come trattiamo soprattutto i nostri capelli. Vorrei ricollegarmi un attimo a ciò che ha detto la dottoressa Viola, nel senso che nella mia esperienza è anche vero che in questo periodo, proprio perché i pazienti sono tendenzialmente che per depressi, li vedono brutti, li vedono spenti, allora inizia sicuramente adesso li taglio perché non li voglio vedere così, li taglio perché li voglio più belli, li taglio. Ci sono anche questi atteggiamenti diciamo che sembra di voler recuperare dall'aspetto della propria chioma anche quello che manca all'interno, insomma. I capelli perché non sono lucidi, perché non sono sani, perché sono spenti, molto spesso perché o non li trattiamo in maniera congrua, quindi o li spazzoliamo troppo spesso o facciamo dei trattamenti aggressivi, tinture permanenti, contropermanenti, colori, controcolori, tutto ciò che molto spesso ravviva l'anima ma non ravviva molto spesso il capello, oppure perché non li trattiamo sufficientemente bene, quindi manchiamo di veri e propri trattamenti di bellezza per i nostri capelli, quindi maschere, balsami. Ecco, e a proposito, dottoressa Lorenzi, di maschere, balsami, ci sono dei prodotti, chiederemo alla dottoressa Lorenzi di aiutare tutti noi a scegliere quello più indicato, ma oggi avremo la possibilità di farci suggerire delle ricette casalinghe, quindi che possiamo preparare con ingredienti che abbiamo in frigorifero o in dispensa. Ci raggiungerà infatti un una naturopata, e quindi se volete sapere magari una maschera, un trattamento da fare in casa, non sono cose miracolose, lo sappiamo, ma insomma aiutano, perché avete i capelli un po' opachi oppure il cuoio capelluto irritato, come mi stanno già scrivendo alcuni ascoltatori, li volete più lucidi, chiamateci e noi cercheremo di realizzare, di soddisfare ogni vostro desiderio. 800 24 00 24, il nostro numero verde è attivo, quindi capelli tra cura e un po' psiche, posso dire così, dottoressa Viola, dato che i capelli sembrano fatti per far parlare di sé? Assolutamente sì, è l'elemento principale, direi, del primo impatto dell'immagine. Allora, come dicevano, come porti i capelli bella bionda, anche se non siete bionde, raccontateci e diteci anche, proviamo a capire insieme che cosa nascondono le attenzioni che abbiamo nei nostri capelli, perché li tagliamo spesso e quant'altro. Siamo qua con tanti ospiti, tanti esperti, ce ne raggiungeranno altri amici nel corso della trasmissione, chiamateci dunque. Una mela al giorno. Tra di noi, confidenzialmente, la chiamiamo chirurgia dei tre buchini, ma il suo nome, lo sappiamo bene, è artroscopia. Bene, quest'anno questa tecnica, che indubbiamente ha rappresentato una svolta nel trattamento dei traumi articolari, pensate, compie 30 anni. Sono volati, insomma, non ce ne siamo accorti. Allora, facciamo insieme il punto della situazione, lo facciamo col dottor Emanuele Deglianni, che è presidente del gruppo regionale artroscopisti del Lazio. Buongiorno dottore, benvenuto. Buongiorno a voi. Dottore, meno invasiva, più rapida, meno dolorosa, tutto vero quello che si dice dell'artroscopia? La sua fama, insomma, è meritata o è meglio fare qualche precisazione e sottolineare anche magari qualche precisazione? Direi che la sua fama è sicuramente meritata, perché in questi 30 anni abbiamo avuto delle grosse evoluzioni nella tecnica artroscopica che ci permette in questo momento di eseguire la gran parte degli interventi su quasi tutte le articolazioni del corpo umano in artroscopia. Sì. È chiaro che dipende anche dal tipo di patologia che andiamo ad affrontare, può essere necessario utilizzare anche una parte di chirurgia aperta, come noi la chiamiamo, una tradizionale abbinata all'artroscopia. Spesso questo ci dà dei risultati sicuramente più importanti per le patologie più gravi. Quindi i tre buchini sono rimasti gli stessi, ma i campi d'azione in questi 3 anni sono aumentati. Dal ginocchio adesso vi siete allargati, come si dice, spalla. Assolutamente ci siamo allargati. Io ricordo la prima artroscopia a cui ho assistito a Roma al Policlinico, fatta dal professor Pierpaolo Mariani sul ginocchio. Il ginocchio è stata l'articolazione, la prima articolazione principe che abbiamo trattato. Piano piano ci siamo allargati, siamo andati alla spalla, siamo andati alla caviglia, siamo andati al gomito, siamo andati negli ultimi anni anche all'anca. Senti, adesso per i 30 anni, più che allargarvi, scendete in piazza a Roma, vero? Succederà nel prossimo weekend. Artroscopisti a disposizione di tutti i romani che vorranno chiedere informazioni. Poi speriamo che dopo Roma tocchiate altre città. Cosa succederà? Ci racconti. Allora, succederà questo. Abbiamo organizzato la giornata dell'artroscopia, che prevede l'allestimento di tendoni offertici gratuitamente dalla Croce Rossa davanti al Palazzo del CONI, che ci ha dato una grossissima mano, dove faremo delle visite gratuite a tutti quelli che telefonano a un numero dedicato, dove daremo delle indicazioni su quello che riguarda le patologie del paziente. Oltre a questo daremo un elenco di centri pubblici certificati dalla Regal, di cui io sono il presidente, dove è possibile tranquillamente rivolgersi, essere certamente trattati nel migliore dei modi. Con i guanti e i tre buchini. Dottor Deglianni, grazie per essere stato con noi, buona giornata e auguri allora all'artroscopia. Grazie a voi degli auguri, arrivederci. Pronto soccorso. lunghi, corti, rasati, ordinati e un po' scarruffati. Come portate i vostri capelli? Raccontatecelo all'824 0024. A disposizione due esperte, la dottoressa Lorenzi, a cui affideremo un po' la cura dei nostri capelli, quindi segnali di caduta, capelli che si spezzano, zone del cuoio capelluto che sembra rimanere più scoperte, stempiature, mentre alla dottoressa Viola affideremo l'impatto un pochino psicologico, perché i capelli, lo sappiamo, danno sicurezza e quando non ci sono fanno andare un po' in crisi. Dottoressa Viola. Assolutamente, diciamo che ognuno di noi ha con i propri capelli un rapporto del tutto speciale e chiaramente quello che esprime attraverso i capelli è il suo stato d'animo e il suo carattere, anche per esempio la scelta di un capello bruno tendenzialmente esprime un carattere piuttosto deciso, volitivo, qualche volta anche un po' aggressivo, il capello biondo esprime una maggiore dolcezza, una maggiore così disponibilità all'altro, una maggiore propensione alla generosità. Questi i canoni proprio archetipici anche delle arti figurative, le rosse per esempio sono sempre state ritratte, hanno rappresentato le streghe, le fate, le maghe, il colore rosso è la trasgressione, il fuoco, la passione. Questi sono proprio i canoni dell'immagine dei capelli nella storia. Poi ciascuno di noi chiaramente interpreta il capello a modo suo, il capello che non c'è o viene utilizzato, questo è soltanto nell'uomo chiaramente, come elemento di virilità, perché sì. Si dice, lo dirà meglio di me la dottoressa Lorenzi, che una quota di ormoni maschili alta si accompagna alla calvizie, ecco, oppure viene vissuto veramente come la privazione del proprio sex appeal, e nelle donne questo, e nelle donne questo pesa e diventa anche la perdita dei capelli è un problema serio per molte donne che ci stanno scrivendo. Ma passo subito la parola alla dottoressa Lorenzi, perché la dottoressa Viola ha sicuramente fornito tanti spunti. Dottoressa Lorenzi, a quali segnali dobbiamo prestare attenzione? Allora, devo dire che la caduta dei capelli è sempre un fattore che induce molto in stato d'ansia e in stato di stress. Sì. E devo dire che se è vero che ci sono cadute normalmente stagionali legate proprio ai cambiamenti climatici, legate alla variazione della solarità, ok? Così come capita poi negli animali, quindi è un fatto normalmente fisiologico, penso che ci dobbiamo preoccupare tutte le volte in cui questa caduta diventa particolarmente abbondante, e quindi qui bisogna fare dei numeri, perché i numeri sono importanti. Quindi se iniziamo a avere una quota di capelli superiore ai 100-150 capelli al giorno, insomma dobbiamo iniziare a chiederci che cosa sta accadendo, ma soprattutto quando questa caduta inizia a comportare un diradamento. Questo che è il primo segnale tra gli uomini e negli uomini e nelle donne ha delle caratteristiche differenti. Gli uomini si stempiano e le donne invece hanno una perdita di capelli che è più vicina alla riga, insomma facendo la riga nel mezzo è più facile vedere eventualmente. Sì, esiste un particolare segno introdotto dagli americani che si chiama segno dell'albero di Natale, cioè sì. Nel senso che nelle donne esiste un aumento della perdita proprio nella regione frontoparietale, anche se devo segnalare un dato che si collega a quello che ha detto la dottoressa Viola, la quantità di ormoni dipende, nel senso che ci sono alcune donne purtroppo che possono perdere i capelli come gli uomini. Si stempiano. Quindi, aumentando la stempiatura, sì. Comunque, insomma, quando i capelli cadono nell'uomo o nella donna, l'autostima vacilla. Spesso gli uomini vanno in crisi, ma a volte la mancanza, come si dice, aguzza l'ingegno, stimola reazioni che alla lunga finiscono quasi con l'essere vantaggiose. Si punta ad esempio sulla simpatia. Avete notato che la maggior parte dei comici italiani non è proprio, come si dice, forte di chioma, eppure furoreggiano, piacciono. Lentamente, ma inesorabilmente, estou estempiando. Se vê delusão. Allora, in linea con noi abbiamo Fabrizio Casalino, alias Giginio. Ciao Giginio. Buongiorno. Allora, tu l'hai buttata sull'autoironia, stempiando, sì. Nemico del vento. Sì, infatti. Beh, bisogna farsi buttarla sul ridere, secondo me la cosa migliore è quella. Poi, a dire la verità, appunto, personalmente ho perso i capelli verso i 30 anni e prima ero un capellone, avevo proprio i capelli lunghi, quindi è stata una perdita, però fortunatamente ho un cranio abbastanza regolare e quindi essere rasato o calvo, che dir si voglia, non è così penalizzante per me, mi sono abituato e quindi sono riuscito anche a vedere la cosa. Senti, in maniera ridicola. Ma con il senno di poi, sì. Fabrizio, ti dici me ne fossi occupato prima, avrei potuto fare qualcosa, ho trascurato, oppure no? Sì, dico che avrei potuto fare qualcosa. Innanzitutto c'è da dire che nel mio caso la caduta dei capelli è genetica, per cui probabilmente avrei potuto cercare di fermarla, ma sarebbe stato in qualche maniera frustrante. Mi hanno avvertito del fatto che stavo perdendo i capelli, però mi hanno anche detto che per tenermeli avrei dovuto fare un trattamento che implicava tutte le mattine di utilizzare dei farmaci. La prospettiva di utilizzare dei farmaci tutte le mattine mi ha... Ha detto buttiamola sull'autoironia. Sì, ho detto no, non ce la faccio, non ce l'ho fatta. L'unica cosa, ecco, pensavo che sarebbe stato se non altro più comodo non avere i capelli, invece non è vero, perché non avere i capelli è più scomodo. Soprattutto in estate, vero? Sì, no, d'estate in realtà è bello non avere il caldo che ti portano, però poi di fatto devi occuparti dei tuoi capelli quasi ogni mattina, mentre invece quando hai i capelli puoi stare almeno uno o due giorni senza pensarci. Allora, io vorrei, intanto Fabrizio rimane con noi, perché la sua canzone, di cui abbiamo sentito solamente un breve estratto, offre tanti spunti che possono essere commentati dalle nostre esperte. Intanto voglio dare la parola a Giulia da Pavia, Simona da Roma. Giulia, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Giulia, deve abbassare la radio, mi stanno dicendo dalla regia, perché sennò sentiamo l'eco. Volevo consigli, sì, per la piscina, visto che c'è tanto cloro e nessuna cuffia li tiene mai isolati, e soprattutto per i capelli anche colorati in piscina, che facciamo? Che facciamo? Bella domanda, dottoressa Lorenzi. Mm-hmm. Cloro e capelli. Sono descritti in letteratura casi praticamente di pazienti che hanno subito proprio delle decolorazioni conseguentemente all'uso del cloro, perché poi la concentrazione del cloro non è la stessa in tutte le piscine, ok? Varia moltissimo. È vero che serve per tenere l'acqua disinfettata, ma in realtà un cloro eccessivo può far male e sui capelli può creare dei danni, proprio vere e proprie decolorazioni con accenti sul verdastro, ok? Quindi assolutamente la cuffia chiaramente importante, ma io utilizzerei anche quei prodotti che si utilizzano anche nel periodo estivo, che fanno come un film protettivo praticamente sul capello e servono per evitare l'aggressione da parte del cloro. Poi sicuramente un buono shampoo, un buon risciacquo dopo. Allora, Fabrizio, tu questi problemi con il cloro non ce l'hai, vedi che tutto sommato è una fortuna. Ah sì, io vado in piscina e non uso la cuffia, questa è una delle poche soddisfazioni della mia condizione, anche se ogni tanto c'è qualche bagnino che sostiene che devi metterti la cuffia lo stesso, e io in quei casi lì veramente divento una bestia, perché non è possibile, lasciatemi almeno questo privilegio. Per uno che ha la cuffia incorporata, dice Fabrizio. Simona da Roma, buongiorno. Buongiorno. Che succede ai capelli di Simona? Che succede ai capelli di Simona? Succede che io li ho molto lunghi, ho i colpi di sole. Sì. E ultimamente pettinandomi ho visto che proprio nella spazzola rimangono tantissimi capelli. Tantissime, ma... Li porto sempre raccolti anche quando cucino, perché altrimenti... Cadono nel sugo. Senti, sì. Simona, ma la dottoressa Lorenzo ha detto che dobbiamo iniziare a occuparci di questo problema dopo i 100 capelli al giorno. È difficile, anche se insomma possiamo farci un'idea, non è che possiamo contarli ad uno, ma passo la parola alla dottoressa Lorenzi. Dottoressa, in questo tempo i capelli cadono, ma Simona ha un problema, parla di ciocche. Sì, allora vorrei puntualizzare una cosa, nel senso che molto spesso si dà la colpa ai trattamenti cosmetici come responsabili di caduta. I colpi di luce o le tinte possono sicuramente danneggiare il fusto, quindi possono spezzare il capello, ma la caduta del capello, quindi la caduta dalla radice, è un'altra cosa, non dipende sicuramente da un trattamento cosmetico di questo tipo, ok? se cadono un po' di più perché è una caduta stagionale, bisogna sempre comunque diciamo eseguire dei trattamenti sia sul capello stesso, quindi ci si può rivolgere o dei semplici cosmeceutici se si valuta che è una situazione diciamo non troppo importante, sì. Ma se la cosa diventa importante bisogna eseguire una visita, fare anche degli esami del sangue. Ecco, potrebbe essere, dottoressa Lorenzi, noi abbiamo i mercati, ma mi dica solo questo per rispondere a tanti sms, potrebbe essere una carenza di qualche minerale o ad esempio del ferro? Certo che sì, è la cosa più importante, la ecco, prima cosa allora, che va valutata. Ecco, occhio al ferro. Siamo tornati insieme, oggi parliamo di capelli, se volete intervenire 800 24 0024, ma voglio prima dare spazio ad una notizia che tutti noi medici e genitori aspettavamo da tempo, cioè le prove dell'efficacia del vaccino per l'influenza A nei bambini che, ricordiamo, sono una delle categorie più a rischio. Voglio però, per maggior tranquillità, leggere bene la notizia anche tra le righe e allora chiedo aiuto al professor Giuseppe Remuzzi, coordinatore delle ricerche del Mario Negri di Bergamo. Professore, buongiorno. Buongiorno. Professore, stiamo tranquilli allora, perché molti genitori ci hanno scritto anche mail dicendoci ma è giusto vaccinarli, siamo preoccupati, perplessi. Cosa ci dice questa notizia? Quello che hanno fatto i ricercatori del National Institute of Health negli Stati Uniti, che è una specie di istituto per la salute dove si fa tantissima ricerca e si fanno grandi passi avanti nella medicina in tanti settori, è stato di far partire ad agosto uno studio. Hanno studiato l'effetto del vaccino nei bambini e i bambini avevano tra 6 mesi e 30 mesi, tra 3 e 9 anni, tra 10 e 17 anni, li hanno divisi per gruppi e hanno visto se bastava una dose di 15 microgrammi o due dosi per indurre una risposta immune, cioè per fare in modo che l'organismo formasse degli anticorpi capaci di combattere il virus. E noi sappiamo da anni che un certo livello di anticorpi vuol dire quasi necessariamente una protezione dal prendere l'influenza. Cos'è successo? Si è visto che i bambini che hanno dai 10 ai 17 anni, il 76% di questi bambini, dopo una singola dose di 15 microgrammi di vaccino, che è esattamente la dose che si fa per l'influenza stagionale, ma questa volta è un vaccino proprio contro H1N1, per la prima volta viene studiato proprio un vaccino contro questa influenza pandemica nei bambini. Ebbene, questi bambini dai 10 ai 17 anni, il 76% di loro ha una risposta anticorpale, cioè forma abbastanza anticorpi da poter prevedere che loro non prenderanno l'influenza. Quelli che hanno da 3 a 9 anni invece hanno una risposta minore, solo il 36% di questi bambini hanno abbastanza anticorpi da poterli considerare protetti. Quelli che sono più giovani ancora, da 6 mesi a 35 mesi, solo 1 su 4, il 25%, erano 20 bambini, hanno abbastanza anticorpi per essere protetti dal prendere la malattia. La notizia cosa vuol dire? Che il vaccino è tanto più efficace quanto più bambini sono più grandicelli. La cosa interessante è che sono proprio i bambini più grandi che rischiano di più. Quello che è stato visto negli Stati Uniti finché hanno continuato a contare i nuovi casi di influenza è stato che il 60% dei nuovi casi di influenza erano tra i 5 e i 20 anni, proprio nella categoria di ragazzi, bambini che rispondono meglio al vaccino, mentre paradossalmente c'era meno influenza, per fortuna, nei bambini più piccolini, quelli che rispondono al vaccino molto meno. Quindi è una bellissima notizia, parliamo di risposta in termini di anticorpi, non ancora di essere protetti dall'influenza, ma le due cose si avvicinano molto. Sulla sicurezza non abbiamo moltissimi dati perché lo studio è cominciato in agosto, quindi ci vogliono dei tempi lunghi per la sicurezza di questi vaccini, però l'idea che questo vaccino si comporta in modo molto simile al vaccino dell'influenza stagionale ci fa pensare che i problemi di sicurezza saranno vicini a quelli dell'influenza stagionale, che è molto sicura. Professor Remuzzi, noi leggiamo che questo vaccino è senza adiuvante, cosa vuol dire? Ecco, questo è un particolare molto importante. I vaccini sono tanto più potenti quanto più li si addiziona di una miscela di un certo particolare olio di acqua che servono per rendere il sistema immune più capace di rispondere al vaccino. E allora una dose anche piccola di vaccino insieme all'adiuvante aiuta la risposta immune. Questo adiuvante però non è mai stato studiato nei bambini negli Stati Uniti, è stato studiato un pochino in Europa, perché in Europa ci sono vaccini per l'influenza stagionale con adiuvante che sono stati usati, non ci sono moltissimi dati, sembra che non creino tantissimi problemi, però dal momento che l'adiuvante stimola il sistema immune in modo importante, il sistema immune dei bambini è un sistema immune ancora non completamente evoluto come quello degli adulti, c'è qualche preoccupazione, soprattutto negli Stati Uniti, per utilizzare il vaccino con l'adiuvante. Questo è senza adiuvante, e con quello senza adiuvante i risultati sono buoni, quelli che vi ho raccontato prima. Professor Remuzzi, il vaccino che verrà proposto ai bambini italiani avrà queste caratteristiche? Il vaccino che verrà proposto ai bambini italiani sarà vaccino prodotto da Novartis all'inizio, e sarà un vaccino con adiuvante. Sull'adiuvante nei bambini non abbiamo ancora abbastanza dati, non ce ne sono negli Stati Uniti perché non è mai stato usato, ripeto, però l'EMEA, cioè l'agenzia che approva l'utilizzo del farmaco in Europa, sta valutando degli studi sull'efficacia del vaccino con adiuvante nei bambini, e sarà molto efficace, questo lo possiamo prevedere, e sulla sicurezza. Quando avremo i dati definitivi degli studi europei potremo dire qualcosa di più. Per adesso può darsi che l'EMEA ritenga che questo vaccino si possa somministrare ai bambini, in quanto le analogie con l'influenza stagionale, con il vaccino per l'influenza stagionale che è adiuvato, sono così forti da far pensare che i vantaggi potrebbero superare eventuali effetti negativi. Professor Remuzzi, la ringrazio come sempre per la sua chiarezza. Ci sentiamo presto, buona giornata. Buona giornata a voi. Molto lentamente, ma inesorabilmente sto stempiando. Si vede l'ozão. Mio papà senza riguardi sembra Angelo Branduardi. Il cuscino non è un mare, ma quei piccoli bastardi si continuano a tuffare. Gigino, l'hai proprio descritta bene. È una canzone tristemente autobiografica, come dico quando la introduco, è così, ma uno poi si abitua. Uno poi si abitua. Andiamo a Davide, che ci chiama da Perugia, vediamo da che parte sta. Davide, buongiorno. Buongiorno a tutti. Io volevo riportare rapidamente la mia esperienza, che un po' contraddice quanto dice il vostro gentile ospite. Io sono un trentenne completamente rasato e ho un trascorso da adolescente con una folta chioma che scendeva fin sotto il collo. Erano il mio orgoglio. Riguardando le fotografie, devo essere sincero, non ero un granché. Circa 15 anni fa. Senta, però Davide si sentiva... Io mi sentivo... A me piacevano tanto. Erano il mio orgoglio, il mio vanto, e li adoravo. Poi è successo che intorno ai 20 anni hanno cominciato ad andarsene. E lentamente prima, poi non troppo lentamente dopo poco tempo. Io le ho provate tutte, ho vissuto penso i 5 anni più devastanti della mia vita, avrò provato penso dai 30 ai 50 trattamenti in fiale, mattina, pomeriggio, sera, le mettevo in continuazione e ho parlato con vari medici. Mi era stato consigliato il trattamento ormonale all'epoca, parlo di circa 10 anni fa, che però aveva la controindicazione che se smettevo poi riprendevano a cadere. Sì. E non considerai mai minimamente di ipotesi di assumere farmaci per la caduta. Mi rassegnai e circa 4 anni fa mi rasai. Sì. La mia vita è cambiata in meglio. Io è vero che dirlo adesso è scontato, però penso che continuerei a portarli rasati anche se ricrescessero miracolosamente. Io sono rinato, tra l'altro ho ritrovato un equilibrio proprio estetico con il mio aspetto. Davide, guardi che la sua esperienza ci fa gioco, come si dice, perché proprio oggi volevamo parlare delle cure, ma anche accettare la propria chioma. Tante volte noi donne non siamo mai contente, li vogliamo lisci, sono lisci, li vogliamo ricci, ma insomma quando i capelli iniziano a cadere, per uomini o donna diventa un problema, e quindi lei ha fatto proprio un percorso di accettazione, direbbero gli esperti. Dottoressa Viola. Ma assolutamente, noi dobbiamo sempre ricordare che il segreto della bellezza sta dentro di noi e non fuori di noi, quindi la capacità di sorridere sui propri difetti, la capacità di amare i propri difetti più dei propri pregi è il segreto per qualsiasi bellezza e a qualsiasi età. Finché diventa un gioco, finché rimane un gioco quello di cambiare colore, di cambiare pettinatura, divertendosi, allora va tutto bene. Ma spesso, e questo lo voglio ricordare a chi ci ascolta, il rapporto con i capelli, così come il rapporto con la pelle, diventa una vera e propria ossessione. diventa una forma di, come si chiama, dismorfofobia, cioè una fissazione. A quel punto non si può che peggiorare, perché comunque cambia il nostro umore, cambia il nostro atteggiamento e qualsiasi meraviglia diventa veramente insopportabile. Eccoci, siamo qui, dottoressa Lorenzi. Intanto che lei si prepara per darci una risposta, anche magari ci sono ogni tanto leggiamo di scoop, grandi notizie che promettono cure miracolose per rifare crescere i capelli e poi tutto viene in qualche modo ridimensionato. Andiamo a Filippo da Pistoia e poi sentiamo le indicazioni della dottoressa Lorenzi. Filippo, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno, l'ho fatto un po' attendere, ma c'erano un po' di telefonate prima di lei. Eccomi, siamo tutto per lei. Grazie. Senta, c'è mia moglie che ha 30 anni. Sì. C'è la fronte molto alta e da 10 anni perde i capelli. Io penso sia ereditario, però ultimamente mi dà molte preoccupazioni. Come mi devo comportare? Filippo, passo la parola alla dottoressa Lorenzi, che sicuramente avrà da chiedere a Filippo qualche dettaglio in più. Dottoressa Lorenzi. Sì, buongiorno Filippo. Allora, un aumento praticamente dello spazio frontale è vero che può essere legato a una alopecia androgenetica, ma in realtà può essere legata anche a altre patologie del cuoio capelluto. Il modo di perdere i capelli non è sempre uguale, quindi in realtà forse più che rivolgersi così a cosmeceutici, forse sarebbe più corretto fare una visita dermatologica per inquadrare un pochino il tipo di problema, perché esistono anche delle patologie che possono creare anche dei danni permanenti, quindi insomma le consiglio una visita dermatologica. Ecco, soprattutto quando la perdita dei capelli dura da anni. Sì, ecco, infatti proprio perché stiamo parlando di un problema, diciamo così, cronico, devo dire che forse è ora di affrontarlo in ecco, maniera... Dottoressa Lorenzi, che cosa c'è da aspettarsi? Quindi il dermatologo ci farà fare anche degli esami del sangue, abbiamo visto che misurerà alcuni valori, questo è importante. Allora, solitamente nelle cadute, diciamo un po' così cronico-stagionali, la cosa più importante è valutare il ferro, la ferritina, i valori della tiroide, perché comunque gli ormoni tiroidei sono estremamente importanti nell'attività pilifera, e poi una serie di enzimi e di vitamine, vitamina B12, folati, zinco, magnesio, rame, ci sono numerosi parametri che vanno valutati, anche perché sono tutti elementi che entrano estremamente nell'attività del bulbo filifero e nella costituzione della guaina. Quindi a volte rimettendo a posto queste carenze il capello si rifiglia. Ecco, però dottoressa Lorenzi, rapidamente, perché voglio dare anche la parola ai nostri amici da casa, abbiamo citato e sorvolato sui farmaci, farmaci sì, farmaci no, allora c'è qualcosa di nuovo? Arrestano la caduta o fanno ricrescere i capelli? Ci sono delle differenze? Rapidamente che cosa sì, possiamo molto dire? Rapidamente, io vorrei rispondere a quel ragazzo di prima e dirgli che il problema dei capelli è il trattamento dei capelli. Va fatto e va visto in relazione a quanto incide sulla propria vita, sulle proprie abitudini e quindi a che impatto psicologico ha. Ci sono dei trattamenti che non solo bloccano la caduta ma fanno anche ricrescere i capelli. È vero che se ci troviamo di fronte a un problema genetico sono quindi dei trattamenti che vanno continuati, ma quando uno dice continuati a vita non ha alcun valore, cioè vanno continuati e vanno eseguiti finché quello è un problema per il paziente. Le cose possono cambiare nella vita, possono cambiare le aspettative, quindi penso che non bisogna mai darsi dei tempi a lungo termine, bisogna fare quello che è importante in quel momento per se stessi. Mi sembra un consiglio di assoluto buon senso, no? Dottoressa Viola, che dice? Assolutamente sì, non dobbiamo dimenticare che cose che in certe fasi della nostra vita ci sembrano fondamentali e irrinunciabili, poi crescendo, evolvendo, cambiando le nostre situazioni diventano del tutto accettabili. Io penso che sia sempre molto importante mantenere un distacco emotivo tra noi e la nostra immagine, che non vuol dire trascurarsi, ma vuol dire volersi davvero bene. Insomma, è come incontrare un amico, quando incontri un amico, se gli vuoi bene gli dici quello che ti piace, gli dici quello che gli sta bene in quel momento, non quello che non funziona. Noi invece con noi stessi ci trattiamo un po' da nemici, cioè sottolineiamo sempre quello che non va. E io voglio coinvolgere il nostro cavaliere della trasmissione, Fabrizio. Eccomi. Perché ci sono tante ascoltatrici, riassumo un po' i messaggi, che dicono che praticamente noi donne siamo più clementi nei vostri confronti. Un'ascoltatrice dice: ci hanno fatto credere per anni che l'uomo rasato e senza capelli è più virile, ma per esperienza, dice la nostra ascoltatrice, ci scrive, non è così. Invece gli uomini amano sempre le chiome lunghe, i capelli assolutamente curati, insomma, per l'uomo la chioma femminile è sinonimo di bellezza. Anche per te? A me piacciono le ragazze con i capelli lunghi. D'altronde il femmineo, l'archetipo femmineo è sempre stato quello. Ci sono dei precedenti, io ne esco che parlava della cantatrice calva, però a parte questo non c'è granché, ecco, sulle donne senza capelli. Devo dire che io, mio malgrado, devo ammettere che amo le ragazze con folte chiome, e non solo, la mia ragazza spesso mi dice che se li vuole tagliare un po' più corti e io glielo impedisco, ecco, minacciandole di lasciarla. Senti, non si chiama Antonella, perché Antonella mi ha scritto proprio lo stesso messaggio, non so se Antonella è la tua fidanzata, ma noi abbiamo un'Antonella che ha scritto al 349-238-6666 lamentando appunto che vorrebbe tagliarsi i capelli per rinforzarli, ma il suo fidanzato glielo vieta tassativamente. In linea con noi è arrivata Chiara Zambianchi. Buongiorno, naturopata. Buongiorno a voi. Buongiorno. Io ho del lavoro per lei, perché allora Martina le chiede una ricetta per dare lucidità al capello. Poi iniziamo da questa, che poi riusciamo, perché ho diverse richieste che poi metteremo sul sito con i vostri, perché ne sono arrivate, ecco, tutti gli ascoltatori di Radio 24 vogliono mettersi al lavoro. Allora, iniziamo dalla lucidità, perché penso abbiamo pochi secondi. Bene, allora, per lucidare i capelli possiamo utilizzare proprio un rimedio molto semplice che possiamo fare in casa: il succo di un mezzo limone, da utilizzare come migliora la circolazione del cuoio capelluto, ma soprattutto lucida il capello, quindi utilizzarlo nell'acqua dell'ultimo risciacquo, è ricco di flavonoidi e quindi lavora molto per la lucidità del capello e per la consistenza. Ecco, allora sul sito, sulla nostra pagina, nel pomeriggio, perché così la dottoressa Zambianchi ce lo scriverà, risponderemo a Rita che vuole il capello più corposo, ad Antonella, Marco, Stefano, che mi scrivono invece che hanno problemi con il cuoio capelluto irritato. Quindi alcune delle ricette della dottoressa Zambianchi le trovate sul sito. Io abbraccio le mie ospiti, la dottoressa Lorenzi, la dottoressa Viola, la dottoressa Zambianchi, che ci hanno aiutato ad affrontare questo tema, e naturalmente un abbraccio particolare a Fabrizio Casalino, che ci ha aiutato a guardare il nostro problema, il problema della caduta, con ironia, e questo ci aiuta. Grazie allora a tutti, grazie a voi che ci avete seguito, appuntamento come sempre a domani dopo il GR delle 11, e parleremo proprio di autostima. Vi aspetto. Essere e benessere.